il mio mondo dov'è? Sembrava tutto qui per me. Vorrei vivere un sogno, poter dire che ho sbagliato ancora, ancora, ancora. Questa strana sensazione che ho in me, sembra a volte che io viva altrove in un mondo che non esiste più, e mi chiedo perché sento sempre tanto il freddo intorno a me, e se vuol vento anch'io aspettando che il cielo torni sereno. La mia vita dov'è? Sembrava così semplice. Cerco solo un segnale per poter ricominciare ancora. Il mio mondo dov'è? Sembrava tutto facile. Cerco solo un pianeta per tornare sognare ancora, ancora, ancora. Il mio viaggio qual è? Sono partito ma non so per dove, non so quando arrivo.